I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Aumentano le vendite di case, in genere è un segnale di conferma dello scongelamento dell'economia, anche perché se c'è una vendita in genere c'è una ristrutturazione, quindi un aumento di domanda per l'edilizia e il suo cospicuo indotto. Proprio la ripartenza del settore dell'edilizia in genere è uno dei carburanti più importanti per la più generale ripresa dell'intera economia. Ancora quell'accelerazione non c'è più di tanto, visto che l'Istat ci avverte che anzi nel prossimo trimestre il PIL rallenterà, salvo poi ripartire verso fine anno. Il dato dell'aumento di compravendite però è vistoso, lo ha annunciato ieri l'Agenzia delle Entrate. Da gennaio a marzo di quest'anno gli italiani hanno acquistato il 20,6% di case in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si tratta di 115.000 abitazioni. Il mercato è rimasto congelato per anni, anche un forte aumento percentuale in realtà parte da una base assoluta ancora molto bassa. L'aumento è più forte al nord, piuttosto che non al sud, 24% contro 16%. Se questa tendenza complessiva fosse confermata anche nei trimestri successivi, allora avremo un mercato che a fine anno potrebbe registrare la vendita di 500.000 alloggi. È un obiettivo da situazione di riconquistata normalità. Tuttavia è ancora presto per dirlo. Nonostante anche i dati della diffusione del bonus per le ristrutturazioni, cresciuti del 38% nei primi 4 mesi di quest'anno, siano lì a dimostrare che la ripresa è comunque in atto. È un auspicio, insomma, per adesso, una semplice speranza che l'Italia abbia davvero voltato pagina. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Oggi la Banca Centrale Europea ha avviato l'acquisto di obbligazioni emesse da società private come previsto dal piano di ampliamento del quantitative easing. Non abbiamo ancora indicazioni ufficiali, ma sembra che nel primo giorno siano stati acquistate obbligazioni di alcune grosse società francesi e spagnole e anche della prima compagnia di assicurazione italiana, ovvero Generali. La BCE a questo punto ogni mese immetterà sul mercato circa 80 miliardi di euro utilizzati per l'acquisto di titoli di Stato e prodotti affini e appunto ora anche per i corporate bond, ai quali secondo gli analisti saranno destinati tra i 5 e i 10 miliardi di euro al mese. Non tutti i bond societari possono essere acquistati dalla BCE, ma solo quelli che rispondono a requisiti di affidabilità e di solidità della società che li ha emessi, e sono comunque esclusi i bond delle banche. Qual è l'obiettivo di questo piano e quali le conseguenze? Partiamo da qui: si stanno riducendo fortemente i rendimenti delle obbligazioni societarie, il tasso medio oggi risultava in calo dello 0,6%. Più in generale, questo è un modo per cercare di amplificare, di rafforzare gli effetti della politica monetaria espansiva della BCE, il cui scopo, ricordiamolo, è sia quello di contrastare il rischio deflazione, sia quello di garantire una maggior disponibilità di liquidità da far arrivare all'economia reale, per esempio attraverso i prestiti alle imprese e anche alle famiglie. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.